fare l'intera trasmissione a Silvia. E ora Disorder. Dunque inizia Disorder per oggi 6 maggio 2024, abbiamo già detto, dedicheremo questo spazio a questa assidua ascoltatrice, morta 10 giorni fa, ringrazio Valentina all'ascolto, anche lei è amica anche di Silvia. E quindi puntata che andrà avanti sino alle ore 23, comincio a salutare già la vasta platea all'ascolto. Abbiamo Anna qui a Roma, Sara Boy a Berlino, Sirena Velena, Lisa De Iuri che credo ci stia ascoltando da Trieste, Maya in Umbria. Un saluto a Giulia, Alberto Cripp, a Tiziano Zero Farinacci di Pi Greco, la fedelissima Venusia Zozzetta Stramonio di Cupio Dissolvi Alfa Privativa, Massimo a Latina, altro Massimo, questo però a Torino. Un saluto a Ernesti Panico Brusati. Audio Chaos con Simone Scalise. Un saluto a Miriam Piera Genovese, credo dal Molise. Tabula Rasa, dalle parti di Cortina d'Ampezzo. Giovanni Lisi Silvestri, ricordi Cinti Serpente, storia esoindustriale italiana. Marco Mascia di Progetto Sonoro, altro progetto musicale validissimo. La Sardegna ampiamente rappresentata anche da Samuele Costa. Abbiamo Holger Ferenc di Olga e Flavio Derbecanta, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Francesco Cornello a Bergamo, il medico della peste. Andiamo ad iniziare con una cosiddetta new entry proveniente da Genova. Vengono da Genova e si chiamano Yalda. Yalda è una celebrazione che si tiene in Iran e consiste appunto nella celebrazione del giorno più lungo dell'anno, o almeno viene considerato tale. Loro hanno sordito con questo lavoro dal nome Tavallo di Digar, cantato in lingua, in un dialetto diciamo della lingua persiana. Album uscito nel 2022 e cominciamo a prenderci confidenza con le prime tre tracce, Edie, la title track Tavallo di Digar e Nazim. E dunque abbiamo aperto questa odierna puntata di Disorder di oggi 6 maggio 2024 con il disco di esordio dei genovesi Yalda. Ricordiamo Yalda, notte più lunga dell'anno per quanto riguarda gli iraniani, la lingua usata è il farsi, quindi il persiano, giacché la cantante Laleh Kaushek è per metà iraniana. Voce incredibilmente bella che mi ha anche ricordato in talune tonalità anche quella di Lisa Gerrard di Deccan Dance. L'ottima perizia tecnica di Berna alle macchine, ai samplers. Li saluto, Laleh Kaushek e Berna, adesso all'ascolto. E dunque incanti e santuari gotici, ma anche oscure trame etniche, cavalcate percussive. Insomma, sono questi gli elementi che caratterizzano in maniera egregia questo Tavallò di Digar. Ammetto la mia debolezza quando si avvicinano appunto oscurità e incursioni etniche, una miscela per me esplosiva, e Yalda lo fa veramente bene. Saluto intanto Giulia Vassena. Yalda ce li ascolteremo anche la prossima settimana, andiamo avanti e ci trasferiamo qui nella vicina Francia con un progetto un po' a metà tra neofolk, gothic, dark wave, ma anche elementi di Martial. Trattasi di Corps d'Alsace, provenienti dalla Francia per l'appunto, e di loro ci andremo ad ascoltare una delle ultime cose dal nome Death 23 Death, che si apre con Mond, poi ci sarà Nero e anche la stessa traccia dal nome Underneath the Ice. Stolen. Du hast meine Sterne verschenkt. the end.